Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urla. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quegli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che vi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Dimmi che cosa resterà. Non me ne frega se mi manca la morale, anche se vado con altre non vuol dire che non ci tenga a te. Lo so che sono un po' egocentrico se parlo di me. Lasciami perdere se cerchi un'altra storia cliché. Non sono un uomo vissuto, ma sono un uomo che vive, che si dimentica tutto ma si ricorda due rime. Io che mi fermo a sentire l'odore di un libro nuovo, che poi non riesco a finire perché per tutto mi annoio. Non sono fatto per te, non sono fatto per loro, non sono fatto per viverti né per stare da solo. Con più gioielli di te ma meno classe, convinto che stare in strada non mi cambiasse. Ma la vita non è un film, non c'è il lieto fine. Nessun colpo di scena, nessuno divide la parte dove vedi tua madre mentre sorride, con quella dove stringi un ricordo fatto di spine. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che vi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse è l'unica ragione che non ci dividerà. E no, ma nessun altro è come te, come te, come. Ma nessun altro è come me, come me, come. So che sei fatta come me, come me, come. Che nessun altro è come te, te. No, ma nessun altro è come te, come te,